provare a intraprendere una strada diversa. Secondo la tua inchiesta, Giovanni, sul Sole 24 Ore, che idea ti sei fatto dai suggerimenti che ti sono arrivati da contribuenti e lettori? Cioè mettere mano a questa semplificazione, agevolare il contribuente con delle detrazioni, porterebbe poi a un comportamento più virtuoso? Allora, in alcuni casi i risultati si sono visti, magari anche sulle spese di ristrutturazione edilizia, sulle spese di riqualificazione energetica. I famosi bonus del 36,50% e del 55% ha portato obiettivamente a un'emersione del nero, di lavori che venivano fatti totalmente in nero prima e che adesso invece sono conosciuti al fisco, quindi dichiara chi effettua il lavoro e scarica sulla dichiarazione dei redditi chi ha pagato per poterlo effettuare. Quindi c'è già stato un effetto benefico? Su alcune spese sì, effettivamente si vede, e diciamo che c'è un movimento, insomma, che ha portato anche un beneficio a quei settori che sono stati interessati da queste detrazioni, anche a livello economico. Su altri il problema grave è che con i bonus fiscali, con gli sconti fiscali, è difficilmente monitorabile nel breve periodo l'impatto. C'è bisogno di un periodo comunque medio-lungo per poter verificare se c'è stata un'emersione sostenuta del reddito. Il problema dell'Italia, a differenza penso del Lussemburgo, che c'è una parte di contribuenti che il fisco non conosce completamente, perché in Italia si fa il nero totale. Chiaro. Che non esiste negli altri paesi, e quindi questo rende più difficili misure che in qualche modo favoriscono l'emersione.